giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In regione crescono di quasi il 16% in 10 anni le imprese guidate da immigrati, quelle con a capo un italiano scese del 5%. Isola della Marinetta, vendita vicina dopo che il comune di Marano ha perso anche in appello, ma non sia turismo di massa. Custodia cautelare in carcere per un passero ucraino fermato dalla polizia Gorizia in auto 4 migranti siriani. Vaia, 6 anni fa la tempesta è diventata sinonimo dei disastri del cambiamento climatico nel nord-est del paese, suo epicentro. Calcio, è il giorno del derby bianco-nero, l'Udinese vede la Juventus a 2 punti, punta al sorpasso e alla prima vittoria con una big. Basket, cronaca della serata perfetta della Gesteco, le Aquile dei Cividale hanno sconfitto Cantù e salgono in cima alla classifica di A2. 12:31, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. In una Trieste piena di turisti, in questo ponte di novembre, trovare una guida può rivelarsi un'impresa e così l'ufficio del turismo cittadino sperimenta nuove modalità. Il servizio non è ancora pronto, procediamo con le altre notizie del nostro giornale radio. Ad avviare un'attività imprenditoriale sono rimasti anche in Friuli Venezia Giulia solo gli stranieri o quasi. Negli ultimi 10 anni i titolari di impresa nati all'estero sono aumentati del 15,8% in regione. In valore assoluto si tratta quindi di 2.398 imprese, quelle in cui a capo c'è un italiano. Sono scese invece del 5% circa quelle in cui la persona non è italiana. A dire l'ufficio studi della CGA di Mestre, determinante per il fenomeno il calo demografico, ma anche una diminuita voglia di autoimprenditorialità tra i cittadini della regione. Occasioni, commercio ambulante, alimentari, bar e ristoranti sono sempre più a conduzione straniera, ma anche nei cantieri edili, in alcuni settori manifatturieri, la loro presenza è sempre più diffusa. Alla fine del 2023 in Friuli Venezia Giulia erano presenti 17.513 imprenditori immigrati. La crescita è stata, come detto, del 15,9%, inferiore alla media nazionale di oltre il 27%. Le principali nazionalità di provenienza dei titolari di azienda stranieri presenti in regione sono i romeni con 1.751 persone, poi gli albanesi con 1.663, i cinesi 1.366, seguono svizzeri, serbi e montenegrini. È Trieste però a segnalare la crescita più elevata, con un incremento del 35% in valore assoluto, 1.066 imprenditori. Seguono Gorizia con oltre il 20% di aumento, dietro Pordenone con più 10,6% e Udine con il più 9%. È pronto ora il nostro servizio di apertura. Come dicevamo, in una Trieste piena di turisti in questo ponte di novembre, trovare una guida può rivelarsi un'impresa. Il servizio non è più considerato una prerogativa per visitatori altospendenti, ma una necessità per conoscere meglio la realtà cittadina, e così l'ufficio del turismo cittadino sperimenta nuove modalità. C'è l'immancabile nave da crociera davanti a Piazza Unità d'Italia, che già da sola riempirebbe la città, ma il fine settimana del 1° novembre ha attirato in regione, a Trieste, tanti turisti italiani, sloveni e austriaci. Davanti all'infopoint di turismo FVG c'era la fila già questa mattina. Ieri la situazione non era tanto diversa, ci dicono. La richiesta di molti che sono arrivati in città individualmente, non con i gruppi organizzati, era quella di poter partecipare a un tour guidato di Trieste. Costo 12 euro oppure già incluso nella card FVG. A prendersi carico della visita guidata a 4 passi in questo fine settimana, Beatriz Barovina, mentre vediamo altre sue colleghe e colleghi già impegnati anche in tour per singole famiglie. Oggi guido tante persone, adesso alle 10:30 comincio una visita guidata e so di averne 30, quindi un numero largo, grande. E più tardi, il secondo giro della giornata, penso di averne un altro ben fornito, intorno alla 20, se non di più. È un tour che si chiama 4 passi, è un'ora all'interno del Borgo Teresiano, quindi punti fondamentali di Trieste, si fa Piazza Unità, Piazza della Borsa e poi zona Canale, i punti principali. E ieri i numeri erano ancora più nutriti? Ieri avevo un gruppo di persone, gruppi veri e propri, ieri erano 50 persone almeno, sì. Con la crescita del turismo aumenta anche l'esigenza di approfondire la conoscenza del luogo che si sta visitando e Trieste rientra in questo trend. Siamo andati a Venezia l'anno scorso sempre nel periodo dei morti e quest'anno abbiamo deciso di venire in questa bellissima città che non conoscevamo, Trieste, siamo contentissimi. Perché la visita guidata? Perché ci può spiegare meglio tante chicche che se no anche solo sui libri non avremmo conosciuto e che quindi ci sta rendendo veramente felici di questa necessità e ci sta spiegando tantissime cose divertenti. Quanti giorni vi fermate? Purtroppo pochissimi, siamo stati ieri ad Aquileia, siamo arrivati qua ieri sera e stiamo qua solo due notti. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il comune di Marano perde il ricorso contro la vendita della cosiddetta Isola delle Conchiglie, ma si cautela su altri tre lotti, altrettanti casoni dell'ex molluschicoltura maranese in liquidazione. Sul futuro turistico della Marinetta i cittadini manifestano dubbi, se non aperta perplessità, e l'amministrazione fronteggia anche le critiche dell'opposizione in consiglio. È più vicina oggi la vendita dell'Isola delle Conchiglie a una società che fa capo a Mario Andretta per un valore di 3.200.000 euro. L'opposizione contro la procedura avanzata dal comune di Marano Lagunare è stata respinta in entrambi i gradi di giudizio. È di pochi giorni fa la decisione del Tribunale di Udine sull'appello presentato dall'amministrazione. Il passaggio all'imprenditore lignanese non gli permetterà automaticamente di portare a termine il suo progetto turistico perché l'Isola della Marinetta, questo è il suo nome ufficiale, al momento ha una destinazione d'uso legata al solo allevamento ittico, spiega il sindaco di Marano, Mauro Popesso. Insomma, è necessaria una modifica del piano regolatore. Un dialogo è stato aperto tra Andretta e il comune di Marano. Per il sindaco Popesso va evitata la trasformazione dell'isola in un luogo per il turismo di massa, cosa che Andretta al nostro microfono ha assicurato che non vuole. Sul tema è critica la minoranza in consiglio comunale. Siamo stati a Marano per sentire l'umore dei cittadini. Mi spiace? Certamente sì. Abbiamo un'idea un po' confusa su questa cosa. Dovrebbe rimanere com'è, secondo noi. Fa parte della laguna di Marano e non di Lignano. Quindi si spera che il comune al più presto ci faccia sapere come va. Intanto lo stesso comune intende opporsi alla vendita di altri tre lotti della procedura di liquidazione controllata della molluschicoltura maranese, un'azienda che a tempi d'oro dava lavoro a decine di persone. Si tratta di tre casoni su cui l'amministrazione vuole esercitare il diritto di rivendica. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: un 25enne di nazionalità ucraina è stato arrestato dalla polizia di Gorizia per aver cercato di far entrare in Italia dalla Slovenia quattro cittadini siriani. Gli agenti lo hanno fermato nella periferia del capoluogo esontino mentre su un'auto di grossa cilindrata si dirigeva a forte velocità verso il centro cittadino. Nel veicolo con il guidatore e quattro migranti, tra cui un minorenne e una donna incinta, tutti in buono stato di salute. Dagli accertamenti sono risultati tutti privi di documenti validi per l'ingresso in Italia. Per il passore è stata disposta la custodia cautelare in carcere. E a Corno di Rosazzo questa notte, poco dopo l'una, è avvenuto un colpo alla cassaforte di un istituto bancario in via Giovanni XXIII. I malviventi hanno bucato la parete per impadronirsi del denaro. Al momento non è nota l'entità del danno pecuniario, che potrebbe anche essere nullo. Le indagini in corso sono guidate dalla Compagnia dei Carabinieri di Palmanova. La richiesta di chiusura della prima sezione del carcere di Udine, sostenuta da oltre 140 sottoscrizioni di cittadini, ha ottenuto l'attenzione delle istituzioni politiche. A renderlo noto è stato il garante dei detenuti del comune di Udine, Andrea Sandra. Il comune, ha scritto Sandra in una nota, ha approvato con il voto unanime di tutti i consiglieri comunali una mozione di sentimenti affinché il sindaco intervenga per quanto di sua competenza presso il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria e la direzione sanitaria e affinché venga condotta un'adeguata ispezione dei locali della prima sezione. L'assessore regionale a salute e politiche sociali Riccardo Riccardi all'interrogazione presentata dalla consigliera Manuela Celotti ha risposto in consiglio regionale accogliendo l'invito di occuparsi fattivamente della vicenda. Nessuna risposta invece, sottolinea il garante dei detenuti, è arrivata dall'amministrazione sanitaria. Dai lavori di ristrutturazione di Via Spalato resta al momento escluso proprio uno degli spazi che più ne avrebbero bisogno, la sezione prima al pian terreno. Un progetto di riqualificazione già c'è, ma è impossibile avviarlo perché non c'è lo spazio per mettere i detenuti che vivono in quella sezione. Resta infatti su tutti il problema del sovraffollamento. I detenuti ormai sono praticamente il doppio rispetto alla capienza di 90 posti. Mentre le cronache raccontano l'ennesimo disastro ambientale delle alluvioni in Spagna, con ormai oltre 200 morti accertati, si ricorda in questi giorni il sesto anniversario di Vaia, la tempesta che ha abbattuto sulle Alpi orientali milioni di alberi, causando la distruzione di migliaia di ettari di boschi e foreste. Ricordiamo allora la portata di quell'evento meteo estremo in questo servizio. Una tempesta di rara violenza, dalle caratteristiche tropicali, con piogge torrenziali e venti a velocità uragano sulle Alpi e sulle Prealpi, capaci di disfare migliaia di ettari di superficie boschiva, torrenti e fiumi ingrossati fino a esondare, frane, allagamenti e acqua alta lungo la costa, è un nome che è diventato sinonimo della furia distruttiva del clima che cambia, Vaia, che si scatenò su larga parte dell'Europa centro-meridionale, dalla Croazia alla Provenza francese tra fine ottobre e inizio novembre di 6 anni fa, epicentro il nord-est d'Italia, la peggiore catastrofe in Friuli Venezia Giulia dal terremoto del 76. A pagarne le conseguenze fu soprattutto l'ecosistema montano, oltre 3.700 ettari di bosco distrutto solo nella nostra regione, pari a 800.000 metri cubi di massa legnosa schiantata, 8 milioni e mezzo di metri cubi in tutto il Triveneto, alberi secolari abbattuti da sciroccate che raggiunsero i 200 km orari registrati dall'ARPA sul Monte Rest in Val Tramontina, e un diluvio che sembrava non finire mai, il picco delle piogge sulle Prealpi Carniche a Forni di Sotto, 870 mm di pioggia cadute nel giro di poche ore. I danni nell'immediato furono ingentissimi, 5 miliardi di euro a livello nazionale, 615 milioni in Friuli Venezia Giulia, ma i danni a lungo termine furono anche di più. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ma quali sono le conseguenze della tempesta Vaia che ancora oggi sono tangibili nei boschi della regione? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Pincin, responsabile del Centro Servizi Foreste e Attività della Montagna Regionale, CESFAM. Vaia ha dimostrato che non possiamo guardare al bosco come un elemento solamente naturale, quasi fosse un monumento della natura da conservare in un'ottica museale. Il bosco invece va letto in un'ottica dinamica, ecologica e di paesaggio, ossia derivante dall'interazione sostenibile e millenaria tra il lavoro della natura e il lavoro dell'uomo. Una tempesta come Vaia, che alla fine è un fenomeno di tipo naturale, quando colpisce i boschi li danneggia, e questo comporta inderogabilmente la necessità di un intervento da parte dell'uomo. Un bosco danneggiato non può essere abbandonato a se stesso, poiché si generano molteplici rischi. Ad esempio, grandi quantità di legno morto aumentano il rischio di incendi e quindi di distruzione del bosco stesso, ma anche dei centri abitati. I boschi danneggiati aumentano i rischi idrogeologici anche per le aree di pianura, pensiamo al dissesto idrogeologico, e oltretutto i boschi danneggiati favoriscono la proliferazione di insetti come il bostrico, che tanti danni sta provocando ai nostri boschi montani e ai loro proprietari e gestori. Qual è la situazione del bostrico in questo momento in regione? Il bostrico è stato l'evento più traumatico per i boschi a seguito della tempesta Vaia. Oggigiorno si nota che la pullulazione è in qualche maniera in una fase di riduzione, ma la situazione sotto uno specifico monitoraggio e l'attenzione resta alta, in particolare perché stagioni estive sempre più calde e siccitose ne favoriscono una proliferazione ulteriore. Quali sono i maggiori rischi che comportano da un'elevata presenza di bostrico? Il bostrico, che è un insetto parassita che è normalmente presente nei nostri boschi, attacca l'abete rosso. L'abete rosso è la principale specie che compone i boschi delle foreste montane. E un'eccessiva proliferazione causa due effetti principali. Da un lato va a eliminare l'abete rosso come specie, che viene sostituita da altre specie, ma dall'altro il bostrico impatta in particolare su quella parte di filiera foresta legno attorno alla quale si sviluppa una porzione significativa dell'economia dell'area montana. Il meteo, ora il cielo è sereno sulla regione, alle 11 c'erano 17 gradi a Trieste, 17 e mezzo a Gorizia e Pordenone, 19 gradi a Udine. A Tarvisio 12 gradi e mezzo, a Sappada 14 e 5 decimi, a Forni di Sopra 15 e mezzo, sul Piancavallo e a Tolmezzo 16 gradi. Sul Monte Lussari 11, sullo Zoncolan 15 gradi, sulla costa 15 gradi e mezzo a Grado, 16 e mezzo a Lignano. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per le prossime ore: cielo in prevalenza sereno su tutte le zone. Dalla serata inizierà a soffiare bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, anche sostenuta poi nella notte a Trieste. Per domani cielo in prevalenza sereno, ma specie al mattino sul Tarvisiano e localmente anche sulle prealpi carniche sarà possibile cielo variabile o nuvoloso per la presenza di nubi basse. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, anche sostenuta a Trieste al mattino. Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia, Civica FVG, annuncia una interrogazione in merito al manto erboso dello Stadio Rocco di Trieste. Di nuovo da rifare, sottolinea, nonostante 1.300.000 euro stanziati lo scorso anno dalla regione. Com'è possibile che le ingenti risorse pubbliche non abbiano portato a una risoluzione del problema? Chiede Massolino all'esecutivo. Auspichiamo, conclude, che almeno in questo caso vengano chiarite le responsabilità e che chi ha sbagliato se le assuma. La priorità è ripristinare una decente praticabilità per il campo del Rocco, ha confermato il consigliere comunale Luca Salvati del PD, annunciando una sua interrogazione, ma questo, ha aggiunto Salvati, non esime il comune dal fornire spiegazioni assai convincenti per quello che è accaduto e quali garanzie saranno fornite per evitare il ripetersi di questa oggettiva vergogna. Tifosi e sportivi, ha aggiunto Salvati, senza colore di parte, hanno diritto di conoscere la sorte della casa della Triestina. Ha concluso così Salvati. E con la pagina dello sport ci spostiamo in casa udinese, allo stadio Friuli Blue Energy Arena alle 18, sarà fischio d'inizio del derby bianco-nero contro la Juventus, su cui mister Runjajc punta molto nonostante l'ultima sconfitta maturata in casa del Venezia. Il sorpasso, azzardato, non crederci. L'Udinese vede la Juventus a 2 punti e deve provare a batterla per superarla in classifica e vincere finalmente con una grande dopo i KO in campionato con Roma, Inter e Milan. Pur sapendo che contro la vecchia signora i friulani hanno perso per 68 volte nella loro storia, mai così tante sconfitte contro nessun altro. Udinese reduce da 4 gare vinte su 5 giocate in casa. Juventus, che ha pareggiato 6 volte in stagione, ma è l'unica squadra a non aver ancora perso. Runjajc dovrà fare a meno di Touré, squalificato in seguito all'espulsione di Venezia, con Giannetti al suo posto, ma ritroverà Toven, che partirà dalla panchina dopo i minuti giocati allo stadio Penso. In attacco, Lucca, 4 reti finora, farà coppia con Davis. Dall'altra parte ci sarà Vlahovic, autore di 6 gol. Una sfida in bianco e nero, anche sotto il piano dei risultati più recenti. La squadra di Thiago Motta non vince da 2 gare, dopo aver subito contro Inter e Parma 6 reti. Per l'Udinese, invece, il fresco rimpianto della squadra sconfitta con il Venezia dopo il doppio vantaggio di Lovric è bravo, ma soprattutto sarà una sfida in bianco e nero per chi farà da spettatore. La curva nord si è fatta sentire già prima della partita con un appello sui social. Il Friuli dovrà essere lo stadio dei tifosi dell'Udinese. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo al basket in Serie A2. Ieri sera Gesteco Cividale ha compiuto un'altra impresa battendo la ex capolista Cantù per 80-72 e tornando provvisoriamente al primo posto in classifica. È stata la serata perfetta in un ambiente pazzesco, ha commentato coach Pillastrini, proseguendo dicendo che la squadra è partita malino ma si è ripresa in modo splendido e sottolineando che la performance della panchina, subentrata ai titolari e il rientro di questi ultimi in campo con una nuova motivazione. Domani, domenica, giocheranno le altre regionali del basket. In Serie A1 Trieste, seconda in classifica dietro a Trento, con Virtus Bologna, Olimpia Milano e Brescia. Alle 17 giocherà in casa contro Varese. In Serie A2 Udine alle 18 giocherà ad Avellino. Ma sentiamo nel servizio la cronaca di Cividale Cantù, un match in cui i ducali hanno mantenuto la testa per quasi tutto l'incontro, ma sempre tallonati e a un certo punto anche superati dai lombardi. Un altro miracolo di Cividale, ancora una volta, contro una delle squadre più forti della A2. Contro Cantù arriva la quinta affermazione su altrettanti incontri giocati in casa, con un copione che si ripete. Inizio in salita, riequilibrio del match e poi una partita a fasi alterne, ma nel finale è venuta fuori la migliore tenuta dei gialloblu. I primi minuti sono tutti favorevoli all'Acqua San Bernardo, più 8 con Moraschini in grande spolvero, ma dura poco. Con pazienza Cividale recupera e questa volta l'uomo decisivo della rimonta è Mastellari. Dalla fine del primo parziale i padroni di casa passano avanti e manterranno la testa per quasi tutto l'incontro. La fine del primo quarto è caratterizzata da un canestro di Ferrari a fil di sirena e Cividale chiude a più 4. Se anche Redivo non segna, ci pensano gli altri, a turno. La Gesteco tocca i più 10, la supremazia a rimbalzo inizia a delinearsi, ma Cantù ha qualità e riesce sempre a riavvicinarsi. A metà partita solo 3 i punti di scarto, 35 a 32, sempre a favore di Cividale. Entrambe le formazioni insistono con il tiro da 3, ma la precisione non c'è. Anche nel terzo tempo Cividale prova ad allungare ma si ferma sempre a più 10 e Cantù riesce a tornare sotto pur senza arrivare al sorpasso. Berti brilla sotto canestro e Redivo inizia a fare il Redivo. Ferrari segna un canestro a fil di sirena dalla propria metà campo ed è il segno che per la squadra di Pillastrini è la serata buona. L'ultimo quarto inizia nel segno di Cantù che con un parziale di più 7 torna avanti per pochi secondi. A quel punto sale in cattedra Redivo che infila quei canestri tanto attesi dal pubblico del Palagesteco. L'allungo è quello buono, la panchina di Cantù mostra segni di nervosismo, a Brienza viene fischiato un tecnico e poi viene espulso nell'azione che chiude il match sull'80 a 70. 4 tiri liberi, 2 a testa per Redivo e Rota. Da segnalare infine la doppia di Berti, 16 rimbalzi e 10 punti. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. E domani mattina torna l'appuntamento con le nostre rubriche sul primo canale radiofonico. Alle 6:05 andrà in onda Est-Ovest, la rubrica curata dalla nostra redazione dedicata ai paesi dell'Europa centro-orientale. La trasmissione ha anche una versione televisiva in programma sul terzo canale Rai alle 11:05, ecco un'anticipazione della scaletta. In Ucraina si continua a combattere. Sia Kiev sia Mosca aspettano i risultati delle elezioni statunitensi. La Grecia non demorde e continua a chiedere ai britannici la restituzione dei marmi del Partenone. L'Austria è ancora in cerca di stabilità dopo la vittoria alle elezioni della destra di Kickl. Gli speleologi pugliesi impegnati nelle esplorazioni della grotta Shtares in Albania. Il regista Ado Hasanovic, il cinema per superare i traumi della guerra in Bosnia ed Erzegovina. Tutto questo è Est-Ovest, domenica alle 11 su Rai 3. E ancora domani, ma su questa frequenza radiofonica, subito dopo la prima edizione del giornale radio regionale delle 8:30, andrà in onda la rubrica Vita nei campi. Vita nei campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura un nuovo portale internet dedicato alla commercializzazione del vino. A seguire per la rubrica su agricoltura e cibo la fortuna che incontrò la IOTA a fine 800, allevamento e cambiamento climatico, come difendere polli e gallini dai picchi di temperature utilizzando gli alberi. Quello della patata è forse uno dei doni più importanti fatti dall'oltreoceano all'agricoltura e vita dell'Europa. E ancora, nella rubrica del vino, centesima puntata sulla gestione della macerazione carbonica, come raggiungere, visitare e apprezzare la foresta di Ampezzo nello spazio che dedichiamo ai grandi boschi. E in conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora alcuni appuntamenti. Secondo fine settimana dell'11ª edizione di Trieste Photo Days trasforma il magazzino 26 del Porto Vecchio in un centro di cultura fotografica. Il festival celebra la fotografia contemporanea con un fitto programma di eventi, mostre e incontri. In sala Sbisalle 15:30 il curatore Vincenzo Labellarte e il critico e fotografo Giovanni Pelloso approfondiscono il valore della mostra M26 Project, project Riflessioni visive in Porto Vecchio, creata per valorizzare la fotografia contemporanea in un'area simbolica della città. In sala Luttazzi alle 18.30, storie, bugie, fotografie, lectio magistralis di Dennis Curti. E a Trieste, alla Galleria Rettori Tribio di Piazza Vecchia, si inaugura alle 18 la mostra Resilience dell'artista noto con lo pseudonimo di Pinkerton. La mostra sarà accessibile fino al 15 novembre. Altri appuntamenti con gli spettacoli: fisarmonicisti dal Friuli, dall'Austria, dalla Slovenia e dalla Cina per la nona edizione di Uniti dalla Fisarmonica alle 20.30 nella Sala Margherita di Tarcento. Particolarmente attesa la fisarmonicista originaria della Cina, Wei Duan, laureata al Conservatorio Tartini di Trieste. All'Astro Club di Fontana Fredda, protagonisti di questa sera alle 21, sono Hack De Picciotto, il progetto artistico di Alexander Hack e Daniel De Picciotto, la co-ideatrice della Berlin Love Parade, che saranno accompagnati dalla chitarrista italiana Dagger Moth, conosciuta anche per la sua collaborazione con i Massimo Volume. Sul palco un viaggio sonoro che spazia tra industrial, cinematico, sperimentale, spoken word. La Civica Accademia di Arte Drammatica Nico Pepe debutta nella stagione Teatro Contatto, curata dal CSS, con lo spettacolo Misura per misura di William Shakespeare. Alle 20.30 al Palamostre di Udine, all'interno della rassegna Extra Contatto, la regia e l'adattamento sono firmati da Claudio De Maglio. Il Teatro Modena di Palmanova ospiterà il settimo appuntamento della rassegna Ti racconto la mia musica, con lo spettacolo teatrale intitolato Between Fights and Love dei 500 Pounds, appuntamento alle 20.30. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Andrea Fontano, te Mauro Ciccarelli, in redazione ha collaborato Samantha Gon, da Maria Spezia e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.